Siamo con Francesca per parlare della festa dell'altra estate a Roma, Casetta Rossa, dal 5 al 15 luglio. Francesca, ben trovata. Federico, ciao. Ci racconti? Sì, dal 5 al 15 luglio torna la festa dell'altra estate. Si tratta di 11 giorni con musica, dibattiti, cinema, teatro e laboratori, tutti a ingresso gratuito e nel parco della Casetta Rossa in via Magnaghi. Si parte il 15 con un brindisi di apertura musicato dai Quinto Quarto e la sera uno spettacolo di Ivan Talarico. Seguono giorni di laboratori, aperitivi, film e concerti. Ti segnalo qualche appuntamento particolare. Abbiamo presentazione di libri come Federico di Fabio Anselmo, Spazio alla letteratura con L'Arminuta di Donatella di Pietro Antonio e A fumetto con Gli Arcanoidi di Michael e Mirko. Abbiamo incontri, dibattiti su Roma, come il dibattito sul mutualismo che vede trevare la partecipazione di Francesca Re David e Marta Bonafoni. Abbiamo anche la presentazione del rapporto Magna-Roma di Terra Onlus. E per la sera invece spazio alla musica con Emilio Stella, Massimo Giangrande e Pigi. Spettacoli divertenti con Claudio Morici, con Valerio Aprea e poi ospitiamo con grande orgoglio lo spettacolo di Francesco Forgione, che si chiama Malandrine, anche Re Maghi sono dell''Ndrangheta, con la partecipazione di Pietro Sparacino. In contemporanea appunto laboratori per i più grandi e più piccoli e la possibilità di mangiare alla Casetta Rossa. Sì. Insomma, un modo per chiudere un anno di attività culturali e sociali che portiamo avanti alla casetta, da laboratori per i più piccoli a laboratori legati all'integrazione, il corso di italiano per stranieri o il corso di lingue straniere o progetti sociali come il pasto sospeso o i corsi di cucina per chi vuole, tenuti dal nostro forno popolare. Allora, per chi non la conoscesse questa manifestazione, racconti anche un po' come nasce e quali sono le sue caratteristiche. Nasce 15 anni fa con l'obiettivo di rendere vivo il parco di Garbatella, il parco Cavallo Pazzo, e l'idea era proprio quella di creare la possibilità di offrire cultura a titolo gratuito. Per cui da 15 anni, per 10 giorni di fila, diamo la possibilità a artisti romani e non di esibirsi sul nostro palco. È un susseguirsi di eventi per l'intera durata della festa, quindi un susseguirsi di incontri, dibattiti, cioè, proprio di festeggiare e di riporre, diciamo, in maniera concentrata quelle che sono le attività che noi facciamo durante l'intero anno alla Casetta Rossa. Bene, per tutti i riferimenti ci dai i contatti web? Allora, il programma completo lo trovate sul sito casettarossa.org oppure sulla nostra pagina Facebook. Invece per venirci a trovare potete venire a Garbatella in via Magnaghi 14. Benissimo, allora ricordiamo la festa dell'altra estate a Roma, alla Casetta Rossa, dal 5 al 15 luglio. Un ringraziamento e un saluto a Francesca. Francesca, un abbraccio, a risentirci presto. Ciao, grazie, ti aspettiamo.